Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La moda passa, lo stile resta, diceva Coco Chanel, regina della modernità, che è riuscita per prima a unire l'eleganza, la raffinatezza e il comfort. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo una storia di artigianato e design, qualità ed estetica, su uno sfondo glamorous e sfavillante. Per farlo, entriamo nella mitica redazione di Vogue. Vogue è la più celebre rivista di moda del mondo. Ha sempre rappresentato lo stile e attraverso le sue pagine ha offerto uno sguardo sulla società che dal campo ristretto del look si estende a tutti gli aspetti della vita. Vogue è stato fondato nel lontano 1892 da Arthur Turner e la sua casa editrice ha intuito fin dai primi anni del Novecento l'importanza che potevano avere le fotografie all'interno del giornale come mezzo di comunicazione, ma anche come arte vera e propria. Per questo motivo sono stati chiamati a lavorare per Vogue alcuni dei più importanti fotografi contemporanei, come Man Ray, Bruce Weber, Helmut Newton e Richard Avedon. Così racconta la sua esperienza al giornale lo stesso Avedon. Succedevano cose magiche, c'era libertà, improvvisazione e creatività. Oggi Vogue annovera 11 edizioni in diversi paesi e riviste satellite come L'Uomo Vogue, Vogue Gioiello, Vogue Bambini. La sua direttrice dal 1988, Anna Wintour, è la donna che ha il potere assoluto di decidere cosa andrà di moda e cosa no la stagione successiva. È lei, caschetto biondo e piglio deciso, che può decretare il successo di una collezione o l'insuccesso definitivo dello stilista che l'ha creata. Lo ammette lei stessa. Sono una persona molto decisa, è vero. So perfettamente cosa funziona e cosa no. Sono dura e gli altri dipendono da me. La Wintour è celebre per i suoi modi bruschi e arroganti e per pretendere tutto e subito, anche l'impossibile, dai suoi collaboratori. Si infuria per una cintura che invece di stare sui fianchi viene allacciata in vita, licenzia il colpevole se in un servizio i sandali sono in camoscio anziché in pelle, sbatte la porta in faccia all'assistente che propone un abbinamento di colori che lei giudica assurdo. Sa bene come la definisce la stampa. Ho letto sul New York Times che sono un ghiacciolo, un'aliena, una dominatrice di un pianeta sconosciuto. Ed è proprio ad Anna Wintour che è ispirato il terribile personaggio di Miranda Presley nel film Il diavolo veste Prada, interpretato da Meryl Streep. Prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me? No. E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda? Beh... penso che dipenda da quello che vuoi. No. Non era una domanda. Il film, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Lauren Weisberger, racconta le vicende di una giovane stagista alle prese con la redazione della rivista di moda, dove tra crisi isteriche e pasti saltati, tutto deve essere sempre perfetto e impeccabile, anche a costo di sacrificare la vita privata e il tempo libero, perché Vogue non è solo un lavoro, è una passione, una ragione di vita totalizzante. La stessa Wintour racconta così cosa significa lavorare a Vogue. Chi lavora a Vogue deve amare la moda. E se non ha l'intuito giusto, Vogue non è il posto per lui. Lavorare a Vogue è il sogno di migliaia di ragazze che vorrebbero uno stile di vita sofisticato, fatto di abiti meravigliosi e parti esclusivi, sempre a contatto con le celebrità del momento. Avere un posto in prima fila per le sfilate della settimana della moda di Milano, Parigi o New York è un desiderio da realizzare. Ne parla così Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia. La gente ha voglia di partecipare a delle cose di moda. E ho visto tantissime persone vestite bene, ragazze belle, vestite quasi, cioè con una certa ricercatezza, quindi anche l'impegno di essere in una festa, diciamo, chiamiamo così, e nello stesso tempo di comprare e di fare qualche cosa di nuovo. Ma per entrare nella redazione più glamour del mondo, la selezione è durissima. Bisogna lavorare sodo, dominare la cultura delle immagini e avere un talento innato nel riconoscere ciò che è bello. Tutte prerogative che possiede anche una ragazza londinese, sveglia e determinata. Il suo nome è Tamara Mellon. Tamara Mellon. Tamara Mellon, classe 1967, è la figlia di Tom Eardy, imprenditore di successo, e Anne Davis, modella per Chanel. Tamara cresce in un'atmosfera felice e grazie al grande benessere economico non le manca nulla. La sua cameretta è un regno da principessa dove invitare le amichette, tutta rosa, con un enorme letto a baldacchino pieno di peluche e uno specchio per provare i trucchi della mamma. Ma il gioco preferito di Tamara è Barbie, la bambola perfetta. Il perché lo racconta lei stessa. She has a woman's body. She's glamorous. Lei ha il corpo di una donna, è glamour, bellissima, però naturale, non volgare. E io mi divertivo a cambiarle continuamente i vestiti e le scarpe. Ne avevo tantissimi, mi mettevo sul tappeto e ci passavo i pomeriggi. Tamara condensa le caratteristiche dei suoi genitori. Dal padre impara lo spiccato senso per gli affari e dalla madre eredita un fisico mozzafiato e la classe. Studia pubbliche relazioni ed economia nelle migliori scuole, prima in Svizzera e poi a Los Angeles. È qui, frequentando la vita notturna di Beverly Hills, che Tamara diventa una vera e propria party girl. Sono gli anni 80 e Beverly Hills è il cuore del divertimento. Ogni sera si organizza una festa esclusiva in una villa diversa, tra attori, divi e fiumi di champagne. L'atmosfera ricca e viziata è quella raccontata qualche anno dopo dal telefilm cult di una generazione, Beverly Hills 90210. Questo no. No. Non ho niente da mettere. Idea. Brandon, svegliati. Alzati, se no facciamo tardi. Che motivo ho di alzarmi? Devi aiutare tua sorella a vestirsi. E questo ti sembra un buon motivo? Senti, cambiare casa significa ricominciare da capo. Non abitiamo più a Minneapolis. Qui non mi conosce nessuno. Potrei essere chiunque. Potrei essere qualcuno. Tamara è presente a tutti gli eventi di Beverly Hills. Conoscere il bel mondo non solo è eccitante, ma apre anche molte porte per lei che ha studiato pubbliche relazioni. E così di giorno va in Rodeo Drive, la strada dei negozi più belli, e compra i vestiti che indosserà. Tocca i tessuti, confronta le forme, ma non bada ai prezzi. Raramente si lascia consigliare dalle commesse, perché ha sempre ben chiaro cosa vuole. Osa, prova capi apparentemente in contraddizione tra loro, ma ottiene sempre risultati stupefacenti. Le donne cercano di imitare il suo stile, ma anche quando ci provano, sembrano solo una copia riuscita male. Tamara ha un gusto tutto suo, precorre i tempi. E una sera, nel 1990, se ne accorge anche la donna più potente al mondo, in fatto di moda. Si festeggia l'inaugurazione della nuova casa di uno stilista. Tamara è vicina al tavolo bianco del buffet, posizionato a bordo piscina. Il giardino è tutto illuminato da candele. I flutti di champagne sono messi in modo da formare le iniziali dello stilista. E tutto è studiato nel minimo particolare. L'abito che indossa Tamara è lungo, bianco e nero, trasparente in alcuni punti. Ai piedi ha un paio di sandali vintage, ereditati dalla nonna, così come la borsetta abbinata. Anna Wintour, direttrice di Vogue America da 2 anni, temuta per le sue recensioni lapidarie, si avvicina a Tamara. Tamara la conosce benissimo, come tutti, ma a differenza degli altri, è sicura di sé e non la teme. Lo ricorda lei stessa. Era considerata da tutti una vipera velenosa, però era anche così cool e affascinante. La Wintour le chiede dove ha preso i sandali e Tamara risponde con semplicità che li ha trovati in un baule in soffitta. Erano impolverati con il tacco scheggiato, ma sono originali degli anni 40 ed è riuscita a salvarli. La Wintour li scruta, si avvicina per vederli meglio. Tamara istintivamente alza un po' la gamba per agevolarla e riesce a strapparle un sorriso. Una rarità per lei sempre così rigida e fredda. Le due iniziano a parlare prima di abiti, poi di altro. Tamara racconta che è inglese, figlia di una modella, e che è appassionata di moda fin da quando era bambina, quando sceglieva personalmente cosa indossare. La Wintour è impressionata dalla sua classe e dalla sua sicurezza e le propone di lavorare per Vogue Inghilterra. Tamara è incredula, ma in pochi giorni molla il suo lavoro in un ufficio stampa, fa le valigie, lascia la sua casa e vola a Londra. Ad aspettarla c'è lo sfavillante mondo di Vogue. I'm Fallon arriva a Londra e la prima volta che mette piede nella redazione di Vogue si sente una bambina in un negozio di caramelle. Quando entra nel leggendario guardaroba, il luogo in cui vengono conservati tutti i capi usati per i servizi fotografici, le gira quasi la testa. Gli abiti sono riordinati per colore e numerati per anno. Pantaloni, gonne, maglie lunghe, corte, larghe, strette, un'infinita distesa di scarpe. Tamara si ferma a guardarle, le tocca una a una. Ogni paio per lei è un'opera d'arte. D'altra parte, la sua passione per le scarpe è davvero smodata. Una scarpa ha il potere di farti sentire sexy ed elegante. È impossibile resistere, deve provarle tutte. Come una moderna Cenerentola, infila una ballerina, poi un sandalo senza tacco, poi un décolleté dal tacco altissimo. Fa qualche passo verso lo specchio, un po' a fatica. Alcune stringono sulla punta, altre hanno il cinturino che blocca la caviglia, altre ancora una suola che fa scivolare. Strano, pensa Tamara, come non si riesca a fare una scarpa bella e contemporaneamente comoda. Le scarpe confortevoli nell'immaginario sono sportive o terapeutiche, di quelle che si vendono in farmacia. Ma una scarpa sexy e alla moda è sempre difficile da indossare per ore. Alla sezione accessori, nel suo ruolo di editor, Tamara Mellon è perfettamente a suo agio. Sceglie borse, cinture e scarpe, decide cosa funziona e cosa no, cosa andrà di moda la stagione seguente e quella dopo ancora. Perché nella moda, si sa, bisogna sempre giocare d'anticipo. Il suo lavoro è la sua vita e vi dedica tutto il suo tempo. Sono gli anni 90 e Vogue è nel massimo del suo splendore. È l'epoca delle super top model come Cindy Crawford, che il momento d'oro lo racconta così. Eravamo delle star, era molto diverso da oggi. Contavamo qualcosa, non eravamo solo dei manichini. Erano anni pieni di lusso, stentato e ricchezza. Le supermodelle, belle, affascinanti e regine indiscusse, sono dei veri e propri miti irraggiungibili. Negli anni 90 sono dive internazionali. Nomi come Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elle Macpherson ed Elena Christensen hanno fatto la storia della moda almeno tanto quanto gli stilisti e sono rimaste attraverso le generazioni. I loro nomi, anche a distanza di 20 anni, rimbalzano nelle cronache. Così ne parla lo stilista Karl Lagerfeld, che le ha viste sfilare tutte sulle sue passerelle. I loro corpi, le loro silhouette, ma non solo, non sono rimpiazzabili. Nessuna è stata mai più come loro, anche perché più passano gli anni e più migliorano. Le super top sono statuarie, toniche e mai magrissime come le modelle di oggi. Allora non era ancora così diffuso il pericolo anoressia e le riviste celebravano le curve nei punti giusti. I cachet delle top sono tanto alti da far girare la testa. Si parla di cifre che si aggirano tra i 50 e i 60 mila dollari al giorno. Celeberrima è diventata la dichiarazione di Linda Evangelista: non mi alzo dal letto per meno di 10 mila dollari. Il passaggio tra le mannequin tradizionali e le top segna anche una svolta sociale per quanto riguarda il ruolo della donna, che diventa indipendente, lavoratrice e in grado di gestire il suo corpo. Naomi Campbell è la prima donna di colore a posare per Vogue, una sorta di riscatto, come spiega lei stessa. Ero nervosa, immobile, ma quella foto aveva un significato, non solo per me. Tamara Mellon vive il momento d'oro di Vogue e contribuisce a rendere grande l'edizione britannica. Ogni giorno seleziona personalmente accessori di ogni tipo che arrivano dalle sfilate di tutto il mondo e va negli atelier degli stilisti emergenti per vedere cosa propongono di nuovo. Poco, purtroppo, e infatti a metà degli anni 90 il settore della moda comincia a entrare in crisi. Dopo le creazioni artistiche di successo degli anni precedenti, adesso tutto sembra uguale a se stesso. Anche l'industria del lusso, che di solito non conosce crisi, cerca escamotage per ritornare a entusiasmare e a vendere. Il declino coinvolge anche le super top, che via via vengono richieste sempre meno e sostituite con testimonial più pop e in vista, come attrici e cantanti. E così, se le modelle riescono a riciclarsi in altre attività e vivere di rendita, anche al settore fashion occorre reinventarsi. Tamara vola a New York in cerca di ispirazione. Andavo su e giù per la Fifth Avenue, guardavo i passanti e mi sono accorta che anche le donne più eleganti camminavano male, avevano una postura sbagliata, i tacchi le rendevano goffe. Giusto il tempo di prenotare un aereo e Tamara torna a Londra. Le idee geniali a volte sono a portata di mano, basta osservare la realtà, guardarsi intorno con occhi attenti e ricettivi. Il mercato della moda sembrava offrire tutto alle donne, tutto era già stato inventato, tranne una cosa apparentemente banale ma rivoluzionaria. Scarpe sexy, altissime, eleganti e raffinate, ma contemporaneamente comode. Tamara Mellon, abituata a essere più avanti degli altri, ora ha un nuovo ambizioso obiettivo. I'm too fabulous, I'm so fierce that it's nuts. I live to be my dolphin, dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne, habillez-moi Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour, merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on the man, don't you wanna see these clothes? Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a metà degli anni 90 e Tamara Mellon, giovane intraprendente editor di Vogue, sezione accessori, ha avuto un'idea a cui pensa dalla mattina alla sera. Guardandosi intorno, osservando amiche e ragazze qualsiasi per la strada, ha capito una cosa tanto semplice quanto illuminante. Le donne non sono comode nelle loro scarpe. Camminare coi tacchi per tutte è una tortura. Negli uffici se li sfilano sotto la scrivania e appena possono, fuori dal lavoro, indossano comode scarpe da tennis, scendendo al compromesso inevitabile di una perdita in fascino e femminilità. Eppure per tutte le donne quella delle scarpe è una vera mania, una passione sdoganata ed espressa al meglio dalla serie TV che è una vera e propria dichiarazione d'amore al mondo della moda, Sex and the City. Oh, è ingiusto, è una tortura, perché mi stai facendo questo? Non posso comprare scarpe. Ma io devo comprarle per forza, quelle che ho non mi entrano, mi sono ingrassati anche i piedi. Carine queste. Sto cercando una cosa comoda. Allora queste te le provo io, eh? Scusi, senta, potrei provare il 37 e mezzo di queste rosse? Oh, aspetti. Sì, anche queste qui e magari queste. E facciamo tutte queste anche. Però, senta, qualunque cosa succeda nei prossimi 20 minuti, premetto che per nessuna ragione al mondo posso comprare niente. Le provo per divertirmi. Mai quanto me. Patricia Field, l'eccentrica e geniale costumista dello show, racconta così la sua avventura. Ho mescolato classico e moderno, costoso ed economico, e il risultato è sorprendente. Se Sex and the City è rivoluzionario, è perché legittima la moda. Le donne del nuovo millennio sono indipendenti, sia socialmente che economicamente, e si sentono autorizzate a spendere in abiti i soldi che guadagnano. La moda non è più solo un capriccio da star, ma qualcosa di essenziale, che fa sentire migliori, più belle, femminili, sicure e accettate. Ed è proprio questa la missione di Tamara. La Mellon non riesce a stare ferma neanche un giorno. Deve trovare un modo per mettere ai piedi delle donne scarpe belle e comode. È il suo obiettivo primario. E così inizia a sfogliare compulsivamente riviste, speciali, vecchi numeri di Vogue. E proprio su uno di questi, datato 1988, nota una foto che la incuriosisce. Si tratta di un laboratorio artigianale che fa scarpe su misura. È stato ricavato nel vecchio edificio di un ospedale e si trova ad Hackney, parte est di Londra. Il proprietario, ritratto accanto alla sua macchina da cucire, è un giovane dai tratti orientali. La didascalia riporta il suo nome, Jimmy Choo. Jimmy Choo. Per Tamara è una folgorazione, come ricorda lei stessa. È stata una vera scoperta. Appena ho visto quell'immagine, ho deciso di andare a vedere di persona cosa succedeva nel laboratorio. Con un gesto veloce, Tamara strappa la pagina, la piega e la mette in borsa. Il tempo di una telefonata per prendere appuntamento, qualche indicazione da lasciare alle ragazze in ufficio durante la sua assenza e Tamara monta sul taxi che la porta ad Hackney. È impaziente perché anche se è abituata a frequentare gli atelier degli stilisti, dai più affermati alle nuove promesse, questo Jimmy sembra nascondere qualcosa di davvero particolare. Quando Tamara arriva ad Hackney ad attenderla in grembiule e guanti da lavoro, c'è Jimmy in persona. Emozionato al pensiero di accogliere nel suo laboratorio niente meno che una grande editor di Vogue. È già stato intervistato da qualche rivista, ma poche cose. E nel sorriso di Tamara intravede già una complicità che potrà portarlo lontano. Adesso, più che altro, vive grazie alla sua clientela affezionata, quel nutrito gruppo di signore della Londra bene che in fatto di scarpe non rinunciano alla qualità. Ma non si immagina nemmeno quanto il suo destino verrà sconvolto grazie all'incontro con Tamara. Jimmy Choo fa accomodare la Mellon nel suo laboratorio, le offre una tazza di tè e, senza smettere di lavorare con precisione minuziosa a un paio di ciabattine di cuoio, incomincia a raccontarle con passione la sua storia. Jimmy nasce a Penang, Malesia occidentale, nel 1961, ma la sua famiglia discende dall'etnia cinese Hakka. I suoi genitori sono produttori di scarpe e gli insegnano fin da quando è piccolo a lavorare il cuoio, la pelle e a cucire. Sentiamo il racconto dalla sua stessa voce. Mio padre faceva scarpe, mia madre faceva scarpe, è stato naturale per me imparare. È così che, tentativo dopo tentativo, sbagliando chiodi, forme e dimensioni, finalmente a soli 11 anni, Jimmy corre entusiasta da papà per mostrargli il primo paio di scarpe realizzato interamente da lui e di cui va particolarmente fiero. D'altra parte, gli insegnamenti di suo padre si riveleranno fondamentali, come ricorda lo stesso Chu. Devo dire che quando ero piccolo è stato mio padre a insegnarmi cos'era il design, come si facevano le belle scarpe. Si metteva lì con me e mi faceva vedere passo a passo. E questo mi è servito per tutta la vita. È stata la formazione più importante per me e per quello che avrei fatto in futuro. Jimmy capisce che quella che è una tradizione di famiglia può rivelarsi una carriera eccitante. E da appassionato pellettiere, studia al Cordwainers Technical College, il più autorevole istituto d'arte applicata di Londra. In pochi anni, grazie all'aiuto di mamma e papà, riesce a ristrutturare un'ala di un vecchio ospedale in cui aprire un laboratorio tutto suo. All'inaugurazione del suo nuovo negozio l'eccitazione è tanta, ma i clienti sono pochi. In breve tempo però per la città inizia a spargersi la voce di questo giovane orientale dal tocco magico che fa scarpe su misura intriganti, iperfemminili e portabili per ore senza fatica. È un passaparola efficace su piccola scala, ma per sfondare davvero, per dare una svolta alla carriera di Jimmy, serve qualcuno che si occupi di marketing, che conosca perfettamente il mondo della moda e che sappia guardare oltre rispetto a dove gli altri si sono fermati. E la donna giusta è proprio Tamara. È lei, così brillante e glamour, l'unica che può accendere il lavoro e la vita di Jimmy. A ricordarlo è Ruthanna Hopper, autrice con Amanda Goldberg del libro Celebutantes, divertente romanzo a sfondo modaiolo. Jimmy Choo era una bomba orologeria, un talento per la moda nuovo e mai visto, che aspettava solo di esplodere. Jimmy sa che è bravo, che ha una marcia in più, che nessuno a Londra e probabilmente anche fuori riesce a fare scarpe come le fa lui, perché sceglie personalmente i materiali, i colori e le forme. Si ispira alla moda del momento, certo, sfoglia le riviste e frequenta le sfilate dove vengono presentate le nuove collezioni, tappe essenziali per vendere le sue creazioni. Ma l'impronta è profondamente sua e sa benissimo che questa è la sua grande ricchezza. La stampa è importantissima, i giornali, le riviste. Io passavo le giornate a sfogliare le pagine di moda, era essenziale, ma per niente al mondo avrei rinunciato al mio stile. Tamara ascolta i racconti di Jimmy, così pacifico e sorridente, senza aprire bocca. Però carta e penna alla mano, sta prendendo appunti. Non dice una parola, ma il suo cervello sta già lavorando. Gli chiede di mostrarle disegni, modelli, tecniche di realizzazione. Lui, incredulo di fronte a una editor di Vogue nel suo laboratorio, le spiega tutto con dovizia di particolari. E Tamara è estasiata. Immediatamente decide di sperimentare su se stessa il comfort di quelle scarpe. Non è un grande sacrificio, perché sono bellissime. Anzi, semmai la difficoltà sta proprio nel riuscire a scegliere un modello tra i tanti. Tutti così spettacolari, raffinati e diversi tra loro. È lei stessa a descriverli. Jimmy aveva tutti i modelli che ogni donna dovrebbe avere nell'armadio. Uno stivale, una scarpa alta, un sandalo elegante e una ballerina rasoterra. La scintilla è scattata. Tamara e Jimmy, entusiasti l'uno dell'altra, iniziano a lavorare gomito a gomito ogni giorno, per settimane. Tra chiacchiere e risate si mettono al tavolo, musica rock di sottofondo, e preparano un'intera collezione. Lui disegna nuovi esemplari sempre più sofisticati. Lei gli consiglia che colori usare, quali materiali scegliere, se arrotondare una punta o mettere un cinturino in più. Lo lascia molto libero, non vuole soffocare la sua vena di designer, ma è lei a indirizzarlo nella giusta direzione. È lei che gli indica la strada per conquistare il mercato. E lui si fida ciecamente. Quando qualcuno entra per comprare, quasi li disturba, come racconta Amanda Goldberg, autrice del romanzo Celebutantes. I clienti entravano per comprare, ma interrompevano la loro creatività. Il designer e la editor, l'artigiano e la trendsetter. Una coppia esplosiva, con un obiettivo molto ambizioso. Lanciare sul mercato scarpe intriganti e comode per conquistare ogni donna e sbaragliare la concorrenza. Ma bisogna sbrigarsi perché la presentazione della nuova collezione è alle porte. Let's make love on a mountain top, under the stars on a big hard rock. I said in these shoes, I don't think so. I said, honey, let's do it here. Destini incrociati. A Destini Incrociati si parla di scarpe e design, creatività e artigianato tradizionale. In una Londra glitterata che si prepara con largo anticipo alla nuova settimana della moda. Tamara Mellon, giovane e brillante editor di Vogue sezione accessori, sta cercando qualcosa che faccia breccia nel cuore delle donne. Qualcosa di accattivante e mai visto prima, che riesca a sbaragliare la concorrenza. Lo trova nel laboratorio di un ragazzo che viene dalla Malesia, Jimmy Chu, che riesce a realizzare una per una a mano scarpe fashion, eleganti, iperfemminili e, questa è la vera novità, incredibilmente comode da indossare. Tamara e Jimmy lavorano intensamente per settimane, studiano modelli, forme, colori, finché Tamara, con il suo solito intuito, si accorge che per affrontare un'intera collezione non bastano due cervelli, pur attivi e geniali come i loro. È un'idea romantica, ma come sempre servono mezzi e soldi, lei lo sa bene. Ha un padre imprenditore e ha studiato marketing. Jimmy non può che darle ragione. Noi volevamo lavorare per l'alta moda, entrare dalla porta principale, cominciare dal massimo. Volevamo presentare un'intera collezione di scarpe già da subito. Eravamo bravi. Tamara era di Vogue, nella moda contava qualcosa, ma non potevamo comunque farcela da soli, sfondare soltanto con i nostri mezzi. Infatti, Tamara si mette all'opera per cercare risorse. Innanzitutto chiede un prestito a suo padre. È sicura di sé, sa che lei e Jimmy ce la faranno, e lo convince che si tratta solo di un prestito. In questo modo i due diventano soci. Nel 1996 nasce la Jimmy Choo Ltd., dopodiché vola in Italia in cerca di fabbriche. L'industria della calzatura in Italia ha una lunga tradizione e non ha mai ceduto alla produzione di scarsa qualità. L'unico problema è che non vengono realizzati modelli di grido, ma scarpe molto più classiche. La collezione Jimmy Choo è davvero diversa da qualsiasi altra. Per Jimmy, l'incontro con Tamara è stato provvidenziale. Grazie a lei ha finalmente trovato la spinta che gli mancava, l'astuzia manageriale di cui non si è mai preoccupato, ma che è così fondamentale per vincere. Insieme si preparano per la prima sfilata, curando tutto nei dettagli, a partire dalla scelta dei modelli da presentare, all'organizzazione della festa per il lancio della collezione, al look da adottare per essere dei rappresentanti viventi della filosofia Jimmy Choo. È Tamara a decidere cosa funziona e cosa no, vale per tutto. È più di una socia, è una vera svolta nella vita di Jimmy, che si affida a lei con estrema fiducia. È stato il destino a farli incontrare e Jimmy a Tamara sarà per sempre grato. Devo dire che lei è la mia più grande fan. È stata capace di capirmi fin dall'inizio. Senza di lei non sarei mai quello che sono. Mi ha aiutato, guidato, ma non ha mai voluto prevaricare. Ha sempre avuto grande rispetto. Siamo nel backstage della prima sfilata ufficiale. La collezione è pronta. Le scarpe sono già ai piedi di modelle altissime e dai tratti nordici. Tamara sbircia dalla tenda. C'è tutto il mondo della moda che aspetta col fiato sospeso. D'altra parte, grazie all'intuito imprenditoriale della Mellon, la campagna pubblicitaria per il lancio è stata massiccia. Parte la musica. Tamara e Jimmy si abbracciano eccitati, incrociano le dita. Esce la prima modella, procede con lunghe falcate per attraversare la passerella. A metà strada del ritorno, come in una staffetta virtuale, entra la seconda. Poi la terza, la quarta, fino a fine sfilata, quando, mano nella mano e sorridenti, sfilano anche Tamara e Jimmy. Il parterre dei VIP è in delirio. Parte un applauso scrosciante. Tutti si alzano in piedi. Tamara, istintivamente, guarda Anna Wintour, l'algida direttrice di Vogue America, che siede in prima fila. È lei che ha il potere di decretare il successo o il flop di uno stilista con un solo cenno del capo. Ma anche lei, miracolosamente, sorride e applaude. Le scarpe Jimmy Choo sono già nell'Olimpo del glamour. Dopo la sfilata di presentazione, tutti parlano della collezione Jimmy Choo. Davanti al laboratorio c'è una fila lunghissima. Le donne devono aspettare ore per avere il loro paio di scarpe. Jimmy da solo non ce la fa. Ha bisogno di assumere collaboratori. La richiesta è sempre più grande e insostenibile. Nel frattempo Tamara si occupa dei rapporti con la stampa. Grazie ai suoi contatti organizza eventi e cura personalmente il marketing. Vogue dedica alla collezione un servizio di più pagine, folto di fotografie, interviste e commenti di chi era alla sfilata. È la Bibbia del glamour e le richieste improvvisamente iniziano ad arrivare anche dalle celebrità di Hollywood. Tamara è soddisfatta ed eccitata. I love dressing Hollywood. Adoro vestire Hollywood per i red carpet, vedere alle feste i nostri modelli ai piedi delle star. La strada è tutta in discesa. Jimmy, grazie all'aiuto di Tamara, è diventato lo stilista di scarpe più richiesto al mondo. E le scarpe Jimmy Choo sbancano perfino a Hollywood, dove le dive di tutte le età le indossano per gli eventi mondani. Michelle Obama, alla cerimonia ufficiale di insediamento alla Casa Bianca, indossa un paio di Jimmy Choo. E Joan Collins non ne può fare a meno. Quando devo stare in piedi tutta la notte, non c'è niente di meglio di un paio di Jimmy Choo. I prezzi vanno da qualche centinaio di dollari in su, ma le donne di tutto il mondo farebbero di tutto per averne un paio. Via via anche i modelli diventano più eccentrici e sofisticati, ma senza mai perdere di vista la comodità. D'altra parte, chi sta a casa adora guardare come sono vestite le dive alle serate di gala, approvare e criticare l'abbigliamento, è un divertimento che non muore mai. È la stessa Mellon a dichiararlo. Ogni donna nel mondo è interessata a cosa indossano le dive sui red carpet. Qualsiasi donna che viva a Los Angeles, Hong Kong, Londra, New York, Tokyo, Parigi, tutte fanno commenti sulle star. Il gruppo Jimmy Choo oggi produce anche borse, occhiali da sole e accessori di ogni tipo. Tamara e Jimmy hanno aperto decine di negozi in tutto il mondo, sempre nel cuore delle vie più chic delle città, e la loro ambizione continua, senza mai per alcuna ragione perdere di vista la qualità. Tamara è apparsa sul Sunday Times come 64esima donna più ricca di tutto il Regno Unito. Le scarpe Jimmy Choo hanno superato ogni aspettativa, diventando delle vere e proprie icone di stile, oggetti del desiderio ambitissimi. E se il merito va in gran parte a Jimmy, che con la sua abilità manuale è riuscito a rivoluzionare il mondo delle calzature, insostituibile è stato l'apporto di Tamara, che ha letteralmente stravolto il destino di Jimmy, rendendolo uno dei più grandi simboli della moda di tutti i tempi. Perché Tamara non solo è una grande manager, ma è anche e soprattutto una donna. Io credo che parte del successo di Jimmy Choo è legato al fatto che sono una donna e mi so rapportare totalmente con le mie clienti. Io so esattamente cosa vogliono indossare, come e quando. E credo che questo sia parte del nostro grande successo. Destini incrociati.